Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Sapete da dove deriva la maggior parte del valore aggiunto prodotto in Italia, cioè il 35% del valore aggiunto? Lo sapete? Dalle grandi imprese tipo Fiat, tipo Eni? Dalla molteplicità di piccole imprese piccolissime? Assolutamente no, né dall'una né dell'altra. La maggior parte del valore aggiunto in Italia arriva dalle medie imprese, da quelle che Mediobanca ha definito quarto capitalismo, 4.200 aziende, quasi tutte familiari, quasi tutte manifatturiere, che rappresentano la spina dorsale del nostro paese. Aziende molto internazionalizzate, che fanno investimenti diretti in ricerca e sviluppo, che hanno un ruolo della famiglia preponderante, che hanno una forte specializzazione in una nicchia di mercato. Questi 4.200 campioni, che sono importantissimi dopo che quasi tutte le grandi imprese sono scomparse, sono in larga parte sconosciuti. Eppure hanno un ruolo importantissimo e tante volte salvano imprese più note e storiche che rischiavano di scomparire. E questo è il caso della Bruno Presezzi, un'azienda fino ad oggi sconosciuta in Brianza, che fa turbine e impianti per la produzione di coils di alluminio con 90 milioni di giro d'affari e che ha comprato, salvandola, un'azienda storica come la Francotosi di Legnano. Di questi temi e anche di come va il manifatturiero in Italia parliamo con Alberto Presezzi, che è l'amministratore della Francotosi appena acquisita e il titolare unico della Bruno Presezzi, azienda che ho appena citato, che fa impianti per coils di alluminio e soprattutto componenti per turbine. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci racconti un po' la ratio di questa operazione. Voi fate soprattutto componenti per turbine, la Francotosi fa turbine e c'è una complementarietà perfetta. Oltretutto voi esportate per il 90%, no? Esatto. Abbiamo fatto questa operazione di acquisizione perché le due società sono fortemente complementari. La Presezzi, che fa componenti per turbina, e la Francotosi, che ha un know-how storico nel settore e quindi ha un know-how per produrre sia turbine a vapore che turbine idroelettriche. E la Francotosi esiste dal 1881, è un marchio famosissimo che si identifica col paese di Legnano. A Legnano la Francotosi è tutto. Voi invece siete nati negli anni 50 e siete una storia incredibile, perché suo padre era un semplice operaio, però con la voglia di intraprendere in conto proprio, ed è arrivato, partendo da un garage di Vimercateo, a produrre importanti impianti. Ecco, tra i vostri clienti principali ci sono la General Electric e la Siemens, addirittura ci sono delle turbine della General Electric in America che montano componenti Bruno Presezzi? Sì, corretto, effettivamente la nostra società è uno dei fornitori chiave di questi due grossi gruppi e per noi è un grande onore. Il vostro business viene trainato dal fatto che nel mondo c'è una crescente domanda di energia. Sì, sicuramente la richiesta dell'energia elettrica è in continua crescita nel mondo e siamo convinti che un'azienda come la nostra potrà trovare sempre più spazio nel mercato. Poi fate anche impianti per alluminio. Sì, in effetti in Presezzi il 30% del nostro fatturato deriva dal settore dell'alluminio, dove produciamo questi macchinari che sono in grado in un passaggio solo di produrre i nastri, i coil d'alluminio direttamente dall'alluminio liquido. Questi nastri che poi servono a produrre sia l'alluminio della Domopak sia l'alluminio più importante, che è quello anche magari per l'edilizia. Per l'edilizia, per l'automotive, per diversi settori. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico, restate con noi. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, abbiamo come ospite Alberto Presezzi, che è amministratore delegato e titolare unico della Bruno Presezzi, che fa circa 90 milioni di euro di giro d'affari nella produzione di turbine e componenti per turbine ed impianti per la fabbricazione di alluminio. L'azienda è uno di quei protagonisti sconosciuti ma importanti del sistema produttivo italiano, un'azienda del quarto capitalismo. Il quarto capitalismo è una categoria speciale di medie imprese identificate dall'ufficio studi di Mediobanca grazie al lavoro di Fulvio Coltorti, che l'ha diretto per molti anni. Secondo Mediobanca, le 4.200 imprese del quarto capitalismo rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana, generando direttamente il 35% del suo valore aggiunto. Questo dato di fatto è ancora più vero dopo che negli anni recenti sono scomparse o uscite dall'Italia le grandi imprese private del cosiddetto salotto buono, cioè Fiat, Pirelli, Italcementi, Gruppo Ligresti e varie altre. Il manifatturiero del quarto capitalismo funziona alla grande. È merito suo se negli ultimi 10 anni siamo passati da un surplus manifatturiero di 60 miliardi a uno di ben 100 miliardi. Un incremento formidabile. Le aziende del quarto capitalismo sono aziende molto specializzate, con alta densità di ricerca e sviluppo, leader o co-leader a livello mondiale nella loro nicchia di mercato, fortemente esportatrici. La loro capacità di innovare viene dimostrata da quanto riescono a incunearsi all'interno delle nicchie del mercato globale. Sono tutte imprese manifatturiere e posizionate nell'alto di gamma del settore di riferimento. Nella stragrande maggioranza dei casi sono aziende familiari. Da notare che non si tratta di piccole imprese, ma di medie imprese, cioè con un fatturato dai 50 ai 500 milioni di euro. Tutte le imprese del quarto capitalismo sono attive nelle 3 tipiche famiglie di prodotti del Made in Italy. La prima sono beni di consumo per il mercato finale, cioè alimentare, sistema moda, casa, farmaceutico. La seconda famiglia sono beni strumentali, cioè macchine utensili e macchine industriali. La terza famiglia di imprese del quarto capitalismo è costituita da intermedi e componenti, cioè accessori per le macchine, componenti elettrici ed elettronici per l'automotive, forniture per l'edilizia, intermedi per i farmaceutici, imballaggi. Tra i più noti casi di successo del quarto capitalismo si possono citare Datalogic, Bracco, Isagro, Geox, Faber, Landirenzo, Balocco, Grafica Veneta. Poi ci sono aziende del quarto capitalismo che ormai sono diventate medio-grandi oppure grandi del tutto e sfuggono alla classificazione, come Mapei, Toz, Marcegaglia, Ferrero. Ecco, rieccoci dopo la scheda. Stavamo parlando con Alberto Presezzi della sua azienda, che ha appena comprato un nome storico come la Franco Tosi di Legnano. Ma prima di arrivare a parlare della Tosi, vorrei chiedere ad Alberto Presezzi come la fabbrica intitolata a suo padre Bruno Presezzi, come è organizzata? Ma è organizzata principalmente con una filosofia di high-tech, nel senso che noi abbiamo grossi macchinari, quindi siamo specializzati in grossissime dimensioni, spesso quei trasporti eccezionali che danno fastidio in strada escono dai nostri cancelli, e siamo organizzati con dei macchinari di ultima generazione. Questo è un po' la nostra forza. Quanto avete investito in macchinari in proporzione al fatturato, oppure anche in ricerca e sviluppo? Può darci delle cifre o percentuali o in valore assoluto sui vostri investimenti? La ricerca e sviluppo, soprattutto negli ultimi anni, ha impattato sui nostri investimenti in modo preponderante, e questo lo vediamo nei nostri macchinari, che appunto hanno soluzioni molto moderne. Per quanto riguarda gli investimenti materiali in macchinari veri e propri nei nostri stabilimenti, direi che abbiamo investito almeno il 30% del nostro fatturato. Accidenti. Io sono stato a visitare la vostra fabbrica. Quella che mi ha colpito è che ho visto dei tecnici più che degli operai. Sì, la parte tecnica di sviluppo è molto importante, anche se devo dire che lo scoglio duro della nostra azienda è sempre in produzione con operai super specializzati. Quanti dipendenti ha la Bruno Presezzi? 140 persone. Per 90 milioni di fatturato, esatto. Mentre invece la Tosi? Arriveremo entro 2 anni a 215 persone per un fatturato teso intorno agli 80 milioni. E quindi diventa un bel gruppo messi assieme. Ecco, invece gli operai prima del vostro salvataggio erano 300 erotti, voi ne riprendete 215, ma avete fatto l'operazione utilizzando ammortizzatori sociali, prepensionamenti e quant'altro. Nessuno è rimasto a casa senza né stipendio né lavoro, no? Sì, l'operazione è stata anticipata da una trattativa molto seria con tutte le sigle sindacali, e alla fine siamo soddisfatti proprio per il fatto che nessuno è rimasto a piedi. Mi diceva che lei ha un grosso apprezzamento rispetto alla forza lavoro della Franco Tosi. Ha trovato personale molto preparato. Sì, decisamente una delle sorprese che abbiamo avuto è trovare prima di tutto il personale Franco Tosi molto preparato, ma anche coinvolto e fiducioso nella nuova sfida. Quindi quale sarà la strategia del nuovo gruppo Presezzi Tosi? Due aziende medie, snelle, con dei concetti ben chiari in termini di efficienza, qualità e tempi di consegna. Che mercato c'è per gli impianti, per la produzione di alluminio? L'alluminio è di uso comune e tutti sappiamo e lo incontriamo nella quotidianità, dalle auto all'uso casalingo. Quindi il mercato è in forte crescita a livello mondiale e siamo contenti perché l'andamento è decisamente in crescita. Però forse è in maggiore crescita la richiesta di turbine e componenti per le turbine. Sì, il mercato si divide in nuovi impianti, nuove centrali, ma soprattutto anche il rifacimento di quelle vecchie che vanno rimodernate e quindi aumentate a livello di efficienza. Ecco, suo padre era un semplice operaio che ha iniziato in un garage di Vimercate e poi siete arrivati a fare un gruppo internazionale così. Com'è andata? Beh, era semplicemente un genio, una persona fantastica in termini di stile e di qualità e quindi il tutto è venuto di conseguenza. Ma questo si deve anche al fatto che voi siete all'interno di un distretto della meccanica che dalla Brianza arriva fino a Como e al Bergamasco, per cui c'è tutto un humus che è fertile in questo, no? Sì, è vero. Io lo dico sempre che la Lombardia è come se fosse una grandissima azienda composta da piccole aziende molto efficienti ed efficaci. Il nostro territorio è pieno di fornitori che ci possono dare un supporto importante alla produzione. Non avrebbe senso per un'azienda come la vostra delocalizzare? No, nonostante le tasse direi che noi stiamo in Brianza. Ecco, è una caratteristica comune. Io vi ho fatto una puntata intervistando Andrea Dell'Orto, che sarà sicuramente anche nostro ospite in futuro, e viene fuori che una caratteristica del territorio brianzolo, che è il l'Eden della manifattura, è proprio quella di non delocalizzare e di tenere tutto lì, cosa che in altri distretti non avviene. Sì, è vero, perché è proprio determinato dal fatto della complementarietà delle varie aziende e quindi insieme si riesce a fare un sistema Italia che funziona all'estero. È importante avere una dimensione media per riuscire a approcciare i mercati internazionali, ma è anche una dimensione che ci permette di mantenere il controllo sulla produzione e di essere efficaci. Tra l'altro la vostra è un'azienda con una redditività significativa per essere nel settore meccanico, no? Ma siamo spesso in double digit, quindi sicuramente più del 10%. Sì, sicuramente direi che è un ottimo risultato. Ecco, per l'acquisizione della Franco Tosi ci sono state difficoltà nella trattativa? La difficoltà principale è stato convincere i sindacati che la nostra operazione era un'operazione seria, semplice, perché era basata su un obiettivo chiaro di crescita e di creare valore. Ci hanno messo un po', diciamo... C'è stato anche un referendum, no? Sì, c'è stato un referendum all'interno che è stato all'inizio negativo, perché forse è stato poco capito, e poi però nei fatti i dipendenti sono risultati contenti e vi hanno seguito con entusiasmo. Tra l'altro sì. La Franco Tosi è veramente un nome nobile. Una volta aveva ai tempi d'oro 6.000 dipendenti, è stata una società che è appartenuta ai Pesenti, all'Ansaldo, al gruppo Castiglioni e in ultimo da questi indiani della Gamont, sì, che l'hanno poi portata in concordato, no? Sì, un'amministrazione straordinaria e ci è rimasta per 2 anni, quindi anche i dipendenti hanno vissuto veramente un calvario, direi, ecco, è stato proprio un calvario. Non deve essere facile rimotivarli dopo una cosa del genere? Ma io dico sempre che alle persone bisogna spiegare poche cose ma chiare. Noi avevamo un progetto genuino, l'hanno capito in modo decisamente veloce e quindi... Sono contenti, insomma, ecco, voi sono soddisfatti. Un'azienda familiare non solo perché lei l'ha ereditata dal padre e poi ha fatto un management buyout per cui è diventato tra i suoi fratelli il titolare, ma anche perché nell'azienda come consigliere delegato con numerose deleghe è anche molto coinvolta sua moglie Barbara. Questo è un caso raro. Sì, devo dire che io mi dimentico sempre di menzionarla, chiedo scusa, però devo dire che sì, l'appoggio di mia moglie è importante. Che ruolo ha in azienda la signora? Sarà a brevissimo amministratore delegato di Franco Todi. E in più è consigliere delegato della Bruno Presezzi. Esattamente. Perché lei ha tutta una storia del meccanico. Lavorava prima in un'azienda vicina, che è la BRV, di sì, Alessandro Spada, che è stato nostro ospite in una delle prime puntate. Sì, è un carissimo amico. Abbiamo delle collaborazioni storiche e devo dire che sì, Barbara prima lavorava da loro, quindi... E questo, insomma, fa parte di tutta la fertilità del distretto, perché sono competenze che crescono l'una vicino all'altra e che si fecondano, insomma. Esattamente, devo dire che è una rete molto stretta di storie e di imprese familiari. Senta, ultima domanda, ma lei crede a questo 1% di ripresa e a questo aumento della produzione industriale che viene dato, o magari sono fuochi di paglia congiunturali? Forse sì, ci metto il forse perché è ancora difficile per dirlo e non ci sono azioni concrete che possano veramente stimolare la ripresa dal mio punto di vista. Quali azioni concrete si aspetterebbe? Diminuzione delle tasse e farle pagare a tutti. La ringrazio e saluto gli ascoltatori alla prossima puntata. Grazie.